Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Era la storia dei miei diletti vicini, che mi colpì molto dal quadro di vita sociale che essa mi offriva. Appresi ad ammirare le virtù e a deprecare i vizi dell'umanità. A quel tempo l'idea del delitto mi era estranea. Benevolenza e generosità erano sempre presenti ai miei occhi e facevano nascere in me il desiderio di divenire attore in quella scena affollata dove tante e ammirevoli doti erano chiamate a esibirsi. Ma nel fare il resoconto dei miei progressi intellettuali non posso trascurare una circostanza che si verificò all'inizio dell'agosto di quello stesso anno. Una notte, durante il mio solito giro nel bosco vicino dove mi recavo a cercare cibo e a fare legna per i miei protettori, trovai per terra un sacco di cuoio che conteneva articoli da vestiario e qualche libro. Mi impadronii con ansia di quel bottino e tornai con esso al mio rifugio. Fortunatamente i libri erano scritti nella lingua di cui avevo appreso gli elementi. Erano Paradiso perduto, un volume di Le vite di Plutarco e I dolori del giovane Werther. Il possesso di questi tesori mi riempì di piacere estremo. Ora, mentre i miei amici si dedicavano alle loro occupazioni, io studiavo di continuo ed esercitavo la mia mente su queste storie. Mi riesce difficile descriverti l'effetto di questi libri, né i dolori del giovane Werther. Tante opinioni si intrecciavano all'interesse della storia semplice e commovente, e tanta luce veniva gettata su argomenti rimasti fino allora per me oscuri, che trovai in esso una fonte inesauribile di riflessione e di meraviglia. Leggendo mi riportavo di continuo ai miei sentimenti e alla mia condizione. Mi sentivo simile e nello stesso tempo stranamente diverso dalle creature di cui leggevo o di cui ascoltavo la conversazione. Provavo simpatia per loro e in parte le comprendevo, ma ignoravo troppe cose. Non dipendevo da nessuno, né con alcuno avevo rapporti. La via della mia fuga era libera e nessuno avrebbe pianto per la mia fine. La mia persona era orrenda. La mia statura gigantesca. Che cosa significava tutto ciò? Chi ero? Che cosa ero? Da dove venivo? Quale era la mia meta? Queste domande mi si presentavano di continuo, ma ero incapace di dare loro una risposta. Il volume de Le vite di Plutarco che possedevo conteneva le storie dei primi fondatori delle antiche repubbliche. L'effetto di questo libro su di me fu ben diverso da quello del giovane Werther. Dalle fantasie di Werther avevo preso scoraggiamento e tristezza. Plutarco, invece, mi dettò altri pensieri. Mi elevò al di sopra della cupa sfera delle mie riflessioni, ad ammirare e ad amare gli eroi del passato. Ma Paradiso Perduto suscitò in me emozioni diverse e ancora più profonde. Esso destò in me tutto quel senso di meraviglia e di timore che può suscitare la raffigurazione di un Dio onnipotente in guerra con le proprie creature. Molte situazioni mi colpivano per la loro somiglianza con la mia, come Adamo. Io ero stato creato, secondo ogni apparenza, senza legame alcuno con altri esseri viventi, ma sotto ogni altro punto di vista, il suo stato era molto diverso dal mio. Egli era uscito dalle mani di Dio come una creatura perfetta, felice, fortunata, una creatura protetta, con cura particolare dal suo creatore. Gli era stato concesso di conversare con esseri di natura superiore, di apprendere da loro la conoscenza. Io invece ero infelice, abbandonato e solo. Un'altra circostanza rafforzò questi sentimenti. Subito dopo il mio arrivo nel capanno, scoprii alcune carte nella tasca dell'abito di cui mi ero impadronito nel tuo laboratorio. Sulle prime non le presi in considerazione, ma ora che ero in grado di decifrare i caratteri in cui esse erano scritte, cominciai a studiarle attentamente. Era il tuo diario dei 4 mesi che avevano preceduto la mia creazione. Descrivevi minutamente su quelle pagine ogni passo innanzi del tuo lavoro e a ciò si univano resoconti di casi domestici. Ricordi senza dubbio quelle carte. Eccole. In esse si spiega tutto ciò che si riferisce alla mia maledetta origine. C'è in ogni particolare la serie delle circostanze disgustose che l'hanno resa possibile e c'è in un linguaggio che dipingeva il tuo orrore e rendeva il mio incancellabile una descrizione minuziosissima della mia persona, orrenda e repellente. Maledetto il giorno in cui ho ricevuto vita. Maledetto creatore, perché hai dato forma a un mostro così orrendo da suscitare disgusto persino in te? Dio, nella sua pietà, ha fatto l'uomo bello e attraente a propria immagine. Il mio aspetto, invece, è una grottesca imitazione del tuo, resa ancora più orribile dalla stessa somiglianza. Queste erano le mie riflessioni nelle ore di scoraggiamento e di solitudine, ma quando consideravo le virtù dei miei vicini, il loro carattere amabile e benevolo, mi persuadevo che se avessero saputo della mia ammirazione per i loro meriti, avrebbero avuto compassione di me, senza badare alla deformità del mio aspetto. Avrebbero potuto respingere chi, per quanto mostruoso, sollecitava compassione e amicizia. Decisi dunque di non disperare, ma di prepararmi a un incontro che avrebbe deciso del mio destino. Rimandai per alcuni mesi questo tentativo, perché l'importanza che attribuivo a quel successo mi riempiva di terrore al pensiero di un fallimento. Inoltre, mi accorgevo che la mia comprensione aumentava talmente con l'esperienza di ogni giorno che volevo arrischiare un'impresa del genere solo quando qualche altro mese avesse accresciuto la mia prontezza mentale. Alcuni mutamenti erano nel frattempo avvenuti nella villetta. La presenza di Safi diffondeva gioia fra i suoi abitanti e notai pure che ormai là dentro regnava un certo grado di benessere. Felix e Agatha dedicavano maggior tempo ai divertimenti e alla conversazione ed erano aiutati nei loro lavori da domestici. Non sembravano ricchi, ma erano appagati e felici. Apparivano animati da sentimenti di pace e di serenità, mentre io mi facevo ogni giorno più inquieto. L'accrescersi delle mie conoscenze non faceva che svelarmi con maggiore chiarezza quale sciagurato reietto io fossi. Nutrivo molte speranze, è vero, ma queste speranze svanivano quando mi vedevo riflesso nell'acqua o quando vedevo la mia ombra al chiarore della luna. Svanivano come quell'immagine sfuggente e quell'ombra incostante. Mi sforzavo di vincere questi timori, di farmi forte per la prova che avevo deciso di affrontare entro qualche mese, e a volte lasciavo che i miei pensieri, senza il controllo della ragione, vagassero per i campi del paradiso e osavo immaginare che buone e care creature avrebbero compreso i miei sentimenti e dato sollievo al mio dolore. Ma era tutto un sogno. Nessuna Eva allevava i miei crucci o divideva i miei pensieri. Io ero solo. Ricordavo la supplica di Adamo al suo creatore. Ma il mio dove era? Mi aveva abbandonato e nell'amarezza del mio cuore lo maledivo. Così passò l'autunno. Con sorpresa e dolore vidi le foglie appassire e cadere e la natura assumere di nuovo l'aspetto nudo e triste di quando avevo contemplato la prima volta i boschi e la bella luna. Non che badassi troppo all'inclemenza del tempo, e il mio fisico si adattava a reggere il freddo più del caldo, ma le mie gioie più grandi derivavano dallo spettacolo dei fiori, degli uccelli e di tutta la gaia veste dell'estate. Quando tutto ciò venne meno, mi rivolsi con rinnovata attenzione ai miei vicini. La mancanza dell'estate non diminuì per nulla la loro felicità. Si amavano e si comprendevano a vicenda. La gioia di ciascuno dipendeva da quella degli altri e non era disturbata dagli avvenimenti esterni. Più li osservavo, più aumentava il mio desiderio di chiedere loro protezione e affetto. Il mio cuore bramava di essere conosciuto e amato da così buone creature. Vedere i loro sguardi rivolti su di me con affetto rappresentava il limite massimo delle mie ambizioni. Non osavo neppure pensare che si allontanassero da me con disprezzo e terrore. Mai veniva respinto il povero che bussava alla loro porta. Io chiedevo, è vero, tesori più grandi di un poco di cibo o della possibilità di riposo. Chiedevo bontà e simpatia, ma non me ne credevo indegno. L'inverno avanzava, un ciclo completo di stagioni. Aveva compiuto il suo giro da quando mi ero svegliato alla vita. A quel tempo la mia attenzione era concentrata unicamente sul piano per introdurmi nella casa dei miei vicini. Elaborai molti progetti e mi decisi alla fine su quello di presentarmi quando il vecchio fosse stato solo. Ero abbastanza sagace da comprendere che la straordinaria bruttezza del mio aspetto era stata la causa principale del terrore di coloro che avevano avuto modo di vedermi. La mia voce, per quanto aspra, non aveva in sé nulla di terribile. Pensavo quindi che se in assenza dei figli fossi riuscito a guadagnarmi la benevola intercessione del vecchio De La Sé, avrei potuto essere accettato anche dai miei più giovani protettori. Un giorno in cui il sole risplendeva sulle foglie rosse che ricoprivano il suolo, diffondendo allegria tutto all'intorno, ma non calore, Safì, Agata e Felix uscirono per una lunga passeggiata fra i campi e il vecchio, per suo espresso desiderio, rimase solo in casa. Quando i figli si furono allontanati, egli prese la chitarra e suonò alcune arie tristi e dolci, più tristi e più dolci di quelle che gli avessi mai sentito suonare. Il suo viso sulle prime si illuminò di piacere, ma a mano che continuava, la sua espressione si fece triste e pensosa. Alla fine depose la chitarra e si abbandonò a riflessioni profonde. Il cuore cominciò a battermi in fretta. Era il momento della prova, il momento che avrebbe deciso delle mie speranze. Ho dato corpo ai miei timori. I domestici si erano recati a una fiera nei dintorni. Tutto era silenzio attorno alla casa. Era un'occasione magnifica, eppure quando mi accinsi a mettere in opera il mio piano, le gambe mi vennero meno e caddi a terra. Mi rialzai e, facendo appello a tutta la mia forza di volontà, tolsi le assi che avevo collocato dinanzi al capanno per nascondere il mio rifugio. L'aria fresca mi fece bene e con rinnovata decisione mi appressai alla porta della casa. Bussai. «Chi è?» disse il vecchio. «Avanti!» Entrai. «Scusate il disturbo», disse. «Sono un viandante che ha bisogno di un poco di riposo. Vi sarei grato se mi permetteste di restare qualche minuto accanto al fuoco.» «Entrate», disse De La Sé. «Cercherò di fare del mio meglio per sopperire alle vostre necessità. Ma disgraziatamente i miei figli sono assenti e temo mi riuscirà difficile procurarvi qualcosa da mangiare perché sono cieco.» «No, non disturbatevi, mio gentile ospite. Ho di che sfamarmi. Mi occorrono soltanto calore e riposo.» Mi misi a sedere e seguì una pausa di silenzio. Sapevo che ogni minuto mi era prezioso, ma ero incerto circa il modo di dare inizio al colloquio quando il vecchio mi rivolse la parola. «Dal vostro modo di esprimervi, straniero, credo che siate mio compatriota. Siete francese?» «No, ma sono stato educato da una famiglia francese e comprendo soltanto quella lingua. Sto per recarmi a chiedere protezione da alcuni amici che amo sinceramente e sul cui favore ho qualche speranza. Sono tedeschi? No, sono francesi, ma cambiamo argomento. Sono una creatura disgraziata e sola. Mi guardo attorno e non ho al mondo parente o amico. Le brave persone presso le quali mi reco non mi hanno mai visto e sanno ben poco di me. Sono pieno di timori perché se fallissi il mio scopo sarei per sempre un reietto sulla faccia della terra. No, non disperate. È certo una grande sfortuna non avere amici, ma il cuore dell'uomo, quando non siano in gioco interessi personali troppo evidenti, trabocca di amore fraterno e di carità. Fidate quindi nelle vostre speranze, e se questi vostri amici sono buoni e amabili, non disperate. Sono buoni. Sono le migliori creature di questo mondo, ma disgraziatamente sono prevenuti contro di me. Sono animato da buone intenzioni. La mia vita è stata fino a oggi inoffensiva e, in un certo senso, benefica. Ma un pregiudizio fatale ottenebra i loro occhi ed essi vedono un detestabile mostro là dove dovrebbero vedere un amico sincero e affettuoso. Si tratta certo di una grande sfortuna, ma se siete davvero senza colpa, non potete convincerli. Quello che sto cercando di fare è proprio per questo. Nutro grandissimi timori. Voglio molto bene a questi amici. Da parecchi mesi, anche se essi non lo sanno, faccio loro ogni giorno delle gentilezze. Ma essi credono che io voglia nuocere loro. Ed è questo pregiudizio che devo superare. E dove abitano questi amici? Nei dintorni. Il vecchio fece una pausa, poi continuò. Se volete confidarmi con sincerità i particolari della vostra storia, può darsi che possa fare qualcosa per convincerli. Sono cieco e non posso giudicarvi dall'aspetto, ma nelle vostre parole c'è qualcosa che mi persuade della vostra sincerità. Sono un povero esiliato, ma sarebbe per me un grande piacere essere in qualche modo utile a una creatura umana. Uomo eccellente, io vi ringrazio e accetto la vostra generosa offerta. Con questa vostra benevolenza mi sollevate dalla polvere e sono certo che con il vostro aiuto non sarò respinto dalla società e dalla simpatia dei vostri simili. Il cielo non voglia, anche se voi foste un criminale, perché questo potrebbe solo spingervi alla disperazione e non volgervi alla virtù. Anch'io sono disgraziato. Sono stato condannato insieme alla mia famiglia, per quanto innocente. Giudicate quindi se posso comprendere le vostre sventure. Come posso ringraziarvi, mio ottimo e solo benefattore? Dalle vostre labbra ho sentito per la prima volta parole gentili nei miei confronti. Ve ne sarò sempre grato e questa vostra comprensione mi rende sicuro del successo con gli amici che sto per incontrare. Potrei conoscere il nome e l'indirizzo di questi amici? Feci una pausa. Era, pensai, il momento della decisione, il momento che avrebbe potuto concedermi o sottrarmi per sempre la felicità. Cercai invano la fermezza sufficiente per rispondergli, ma lo sforzo mi tolse ogni energia e mi accasciai sulla sedia, singhiozzando forte. In quel momento sentii i passi dei miei più giovani protettori, non avevo un istante da perdere, e afferrando la mano del vecchio gridai: «L'ora è giunta! Salvatemi e proteggetemi, voi! E la vostra famiglia siete gli amici che cerco. Non abbandonatemi nel momento della prova. Gran Dio!» esclamò il vecchio. «Chi siete?» Allora entrarono Felix, Safi e Agatha. Chi può descrivere il loro orrore e il loro sgomento quando mi videro? Agatha svenne, Safi, incapace di soccorrere l'amica, si precipitò fuori dalla casa. Felix balzò in avanti e con forza sovrumana mi strappò dal padre, le cui ginocchia mi ero afferrato. In un impeto d'ira mi buttò per terra e mi colpì violentemente con un bastone. Avrei potuto farlo a pezzi come il leone sbrana un antilope. Ma stretto da profonda amarezza il cuore mi mancò e mi trattenni. Vidi che era sul punto di colpirmi di nuovo quando, vinto dal dolore e dall'angoscia, uscii dalla casa nella confusione generale senza che alcuno mi notasse. Corsi nel mio rifugio.